In questi 3 anni noi abbiamo assistito a livello regionale a un aumento delle presenze dei detenuti in carcere, parlo di presenze fisse dal 1 gennaio al 31 dicembre di oltre 500 unità. Quindi in Emilia-Romagna esiste un undicesimo carcere virtuale, non è materiale, ma che si spalma su tutti gli istituti penitenziari esistenti. La taglia media delle carceri nella nostra regione è di 380 persone e se in 3 anni abbiamo 500 persone in più, vuol dire che abbiamo più di un carcere che si è formato senza quasi, se ne sono accorti, sì, solo chi vive in carcere, perché vi ho detto che i territori forse non se ne sono ancora accorti, perché c'è questa stagnazione e questo aumento di persone negli istituti. Il fenomeno, spiegarlo è molto complesso, però vale la pena che vi dia qualche diciamo riferimento. In primo, nel nostro paese si è assistito all'adozione di normative che hanno previsto la carcerazione come modalità di riparazione del torto o del reato commesso. Quindi, condizioni di persone in carcere è di fatto aumentata. Il secondo fatto è che in Emilia-Romagna noi abbiamo assistito a livello nazionale, qui la responsabilità è all'amministrazione centrale, quindi parlo dell'amministrazione, del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, a trasferimenti, soprattutto a Parma, di detenuti di alta sicurezza provenienti da altri contesti regionali, purtroppo molto spesso per ricevere delle cure sanitarie che, va detto, anche nell'ambito psichiatrico non vengono erogate in altri contesti regionali. Lo dico molto chiaramente questo perché il rischio è che l'eccellenza emiliano-romagnola poi si paghi caro sul piano regionale, già ho attenzionato questo punto, invitando la regione ad assumere un ruolo più determinato in sede di conferenza Stato-Regioni sul tema carcere. Il terzo processo invece riguarda un po' la cultura che purtroppo anche la nostra regione si è incistata nei territori, che è quella di una diffidenza crescente rispetto alle tematiche del carcere. È molto esigua la quantità di persone che accedono ai benefici, quindi le persone che stanno in carcere possono accedere all'esterno. Andiamo da contesti che io ritengo da superare, il punto che ho invitato in sede di cabina di regia l'assessore Conti a valutare anche strategie di differenziamento degli interventi della regione nei diversi contesti, perché ad esempio a Piacenza, nei 3 anni che io sono garante, io non ho assistito ad alcun inserimento al lavoro esterno. Quindi questo è totalmente contraddittorio sia rispetto alla norma che sia rispetto ad altri territori come Parma e Bologna, dove invece il numero delle persone ammesse al lavoro esterno è notevolmente superiore, perché a Bologna superiamo le 60 unità e a Parma ci attestiamo tra le 25 e le 30 costantemente. Da dove nasce la refrattarietà dei territori, ma anche delle politiche locali? C'è una debolezza fondamentalmente nei sistemi di welfare e di impegno, bisogna per me superare quello che è dilagante ormai nella cultura della nostra popolazione e anche di parte della politica, che è quello che riguarda lo stigma verso le persone che hanno percorsi penitenziari. Se non superiamo questo stigma, se continuiamo a ritenere i detenuti, come dire, una materia che non genera consenso, allora tanto vale nominare dei garanti perché è inutile parlare dei loro diritti. Lo dico questo perché nelle carceri, quando noi sentiamo parlare di suicidi, di autolesionismo, di risse, di traffici, di tutte le illegalità che sono molto, molto ormai all'ordine del giorno. Ecco, questi sono, diciamo, dei sintomi di un malessere della popolazione detenuta che non ha più un orizzonte di speranza. Per cui la nostra regione, benché abbia un impegno fortissimo sul piano finanziario, la regione Emilia-Romagna investe circa 20 milioni di euro all'anno alle carceri, salute, formazione, welfare e cultura, non possono generare in una comunità di 3.800 persone un tasso di suicidio talmente tanto elevato che possa la nostra regione essere tra le 4 peggiori regioni sotto questo profilo in Italia. Quindi questi fenomeni che molto spesso anche voi giornalisti riportate giustamente, date risalto e quant'altro, vanno sempre scritti all'interno di una cornice di disperazione, di difficoltà di intercettare i bisogni dei detenuti perché il sovraffollamento schiaccia queste macchine organizzative e poi la trascuratezza diventa di fatto inevitabile.